con voi. Mille grazie, non si incomodi. Gioia e pace per mill'anni. Obbligato, in verità. Pace e gioia sia con voi. Mille grazie, non si incomodi. Gioia e pace per mill'anni. Obbligato, in verità. Questo volto non è ignoto. Ah, su un colpo andato vuoto. Non ravviso, non ricordo. Agabbar questo valor. Ma quel volto. Dove il travestimento? Non capisco chi sarà. Più propizio me sarà. Sì, propizio a me sarà. Gioia e pace, pace, gioia. Ho capito, o c'è il che noia. Gioia e pace, benditore. Basta, per pietà. Gioia e gioia. Pace, ho capito, o c'è il che noia. Benditore, pace e gioia. Basta. Gioia. Basta, per pietà. Pace. Ma che perfido destino. Il vecchio non mi conosce. Ma che barbara giornata. Ma mia sorte fortunata. Ma che perfido destino. Ma che barbara mio giornata. Bene. Ma che perfido destino. Fuochi santi. Tutti quanti. Gioia, canoia, pace, ma basta, gioia, basta, per pietà, ma che perdi la poca destino, ma che ne darà giorno, parleremo con libertà. E pace. Basta. All'indomani il mio tesoro. Se sapessi, se vedessi questo cane di tutore, oh, che rabbia che mi fa! Caro te, mi raccomando, tu mi salva, bevita, sì, sì, sì, sì. Caro te, mi raccomando, tu mi salva, bevita. Non temer, ti rassicura, non temer, ti rassicura. Sorte amica, a noi sarà. Dunque spero, ammetta fida, il mio cuore giubilerà, giubilerà.